Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ritroviamo l'Associazione Difesa Consumatori nel nostro secondo appuntamento settimanale. Ritroviamo un tema purtroppo periodico, è quello dei contatori. Che cosa è successo? C'è una vicenda clamorosa che raccontiamo col presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dunque, vicenda clamorosa, per cui parliamo di una bolletta del gas da 20.000 euro, cifra che si spende forse nelle aziende, ma invece è arrivata ad un vostro associato questa bolletta. Sì Mirko, una situazione, una vicenda clamorosa, ma che comunque purtroppo devo dire non è l'unica, ma è una cosa mai da tutti i giorni. Certamente questa per il suo significato assume dei connotati molto più rilevanti, ma bisogna dire che non è da tutti vedersi capitare in 35 giorni una bolletta da 20.000 euro per un consumo di oltre 29.000 metri cubi di gas. E certamente è una vicenda che cogliamo l'occasione anche per fare un po' il punto della situazione e riflettere su quelle che sono un po' queste casistiche che normalmente capitano sempre più frequentemente all'Adico in questo momento anche di crisi, e soprattutto anche per dare delle informazioni su cosa e come potersi tutelare il consumatore quando accadono queste vicende. L'altra cosa sconcertante è che questa vicenda non è di qualche mese fa, ma addirittura di 6 anni fa, quindi si è trascinata fino ad oggi. Guarda, allora, tutta devo dirti in mezzo che è una vicenda che è iniziata nel 2007, di cui il signore in oggetto per 6 anni ha avuto continui scambi di carte bollate con, in questo caso, Enel Energia, per una vicenda, come abbiamo detto, di bollette pazze, e di cui sostanzialmente si è rivolto l'Adico. Devo anche dirti in mezzo che sarà notizia delle prossime ore che riusciremo anche a risolverla, perché già Enel ci ha contattato annunciandoci che è intenzione nelle prossime ore risolvere questa questione. Quindi un grande risultato anche degli uffici, ma soprattutto anche della volontà dell'ente a risolvere questo problema, ma certamente non sarà l'unico che verrà risolto così facilmente e non sarà l'unico che non capiterà più nelle prossime ore, comunque nell'ambito del nostro lavoro. Cos'è successo nello specifico a questo contatore? Beh, allora, innanzitutto devi sapere mica una cosa così. Innanzitutto un contatore del gas è tarato perché non possa attraversare la conduttura e non può essere misurata nel contatore più di 6 metri cubi all'ora di gas. Dopodiché l'apparecchiatura non è più valida, non è più rispondente alle specifiche. Nel caso del signore, promesso questo, cosa è successo? Che dovevano cambiare il contatore, e l'elettricista dell'Enel è andato là, ha fatto la misura, quindi l'ha fatta l'Enel. Passano 35 giorni, vanno a cambiare il contatore e si accorgono che il contatore ha girato per oltre 29.000 metri cubi rispetto alla lettura fatta all'elettricista, permettendo che i 29.000 metri cubi è un consumo medio di 20 anni di un appartamento, una famiglia di 4 persone di 80 metri quadri, certamente non si è riusciti a trovare l'inghippo. Fermo restando che l'Enel in questo caso ha cominciato a dare colpa subito all'Enel Energia, che a giustificarsi dando la colpa che era l'Enel Energia, quando comunque l'Enel Gas che cercava di riscuotere la bolletta, è tal punto che addirittura si è rivolta a una società di recupero a crediti in barba a quella che sono state tutte le ragioni più dimostrate dei signori. Quindi un atteggiamento non certamente encomiabile da parte dell'ente. Solamente grazie all'intervento dell'Adico siamo riusciti a risolvere, e grazie appunto anche ai media a portare in luce una vicenda che certamente loro hanno voluto subito risolvere nel più breve tempo possibile. Del resto la misura, come hai detto, 20 anni di gas consumati in un mese sono davvero non credibili in nessun modo, e questa vicenda, come dicevi, tra brevissimo arriverà a conclusione. Ma allargando il discorso a considerazioni più generali, dovessimo notare dei numeri strani, controllando, ed è quello che invitiamo a fare, a controllare i contatori, non fidarsi solo della bolletta, controllando il contatore notiamo dei numeri strani che non corrispondono al nostro consumo reale, che cosa dobbiamo fare? Come ho detto, amico, il consiglio principe è quello di fare sempre le letture, le autoletture, trasmetterle proprio per evitare qualsiasi sorprese, soprattutto anche a livello di acqua, quando ci può capitare una perdita occulta. Seconda roba, e qua c'è un po' una criticità per quanto riguarda la normativa, l'ente può mandare dei conguagli retroattivi fino a 5 anni per effetto di quelle che sono delle rivalutazioni di calcolo rispetto a quelli che sono i prezzi che ti hanno applicato sulle bollette. Al di là di questi due aspetti, comunque la cosa importante per il consumatore è quello di verificare la periodicità con cui le bollette vengono inviate, perché poi sono capitati anche dei casi all'Adico con cui le bollette hanno subito, il consumatore ha subito degli addebiti in conto prima che arrivasse cartaceo, addirittura sconfinando quel conto con tutti i problemi. In altro luogo poi può succedere che quando ti capitano questi importi così stratosferici, se dimostrati, il consumatore sa che può realizzarli in con moderate senza interessi. Se questi poi non risultano reali, bisogna comunque fare e verificare tutti quelli che sono i conteggi per effetto delle nuove rivalutazioni dei consumi, perché sappiamo che più si consuma, più scaglioni si rivalutano e più i costi aumentano. Per cui questi sono un po' i consigli principe. E da ultimo fare una verifica periodica se ci sono delle perdite occulte, perché se per esempio per l'acqua è facile, basta chiudere il rubinetto e vedere se il contatore gira. Per quanto riguarda l'energia elettrica, bisognerebbe fare un po' lo stesso calcolo o adottare questo procedimento, staccare tutte le utenze e verificare se il contatore gira, perché a volte può capitare che una persona può avere anche una dispersione. Fermo tutto questo, altre soluzioni, altri modi non ci sono, e se per caso il consumatore dovesse rimanere coinvolto in una vicenda come è capitato a questo signore, rivolgersi all'Adico, perché noi la prima cosa che facciamo è intimare l'ente a noi, chiedere cifre che possono risultare improprie, diffidandole quindi a perseguire quelle che sono delle metodi o delle riscossioni che non sono opportune, in attesa di trovare una soluzione che possa andare incontro non solo alle esigenze del consumatore, ma anche verificando appunto la reale consumo effettivo, fermo restando che c'è sempre la speranza e la possibilità di fare anche delle verifiche sul contatore qualora questo possa aver risultato anche che difettoso nel consumo, nei calcoli rispetto dei precedenti conteggi. Hai usato un'espressione, un verbo, parlando della corrente, il contatore gira. In realtà erano i contatori vecchi che giravano, avevano la rotellina che girava. Adesso non c'è nulla che gira, c'è un display, per cui da lì effettivamente è un po' difficile capire, dovrebbe essere controllato da centrale, quindi anche la tecnologia che dovrebbe insomma aiutarci a controllare meglio, ma magari non è così facile. La rotellina che girava la vedevi subito, mentre il display forse è un po' più complicato, almeno per la gente comune. Con questo allora ci salutiamo, controllate i vostri contatori, questo è il primo consiglio che diamo, e con l'Adico ci ritroviamo la settimana prossima con altri due argomenti, e diciamo che la settimana prossima arriveremo a quota 200 collegamenti con voi, quindi momento da festeggiare insieme. Grazie Carlo, buon proseguimento. Grazie a te amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.